Un buon pomeriggio a Lucia Cataleta e Dario Molinaro di Art Motel. Bentornati ragazzi ai microfoni di Radio Città Fujiko. Grazie a te. Grazie Rachele, bentornati sì, a tutti, grazie. Allora, innanzitutto direi quanta emozione c'è nel riprendere finalmente con eventi dal vivo, perché siamo qua proprio per parlare della vostra ripresa con eventi finalmente in presenza e insomma che ci si può vedere negli occhi finalmente. Quanta emozione c'è? Beh, tantissima. In realtà è un'emozione che stiamo provando fortunatamente già da giugno, perché abbiamo inaugurato la stagione di eventi con il primo degli eventi finalmente, diciamo, a contatto con le persone a giugno al Locomotive. E poi pian piano siamo andati avanti in tutta quest'estate, non ci siamo arrestati per nulla, non ci siamo fermati nemmeno per fare un po' di vacanze. E abbiamo continuato fino, per fortuna, fino a settembre. Speriamo che le cose continuino così per tutti. E avete appunto iniziato con gli eventi dal vivo, come dicevi, già da un po', ma in questi giorni soprattutto siete stati l'11 settembre al Baraccano e ci tornerete il 18. Ci raccontate un po' in cosa consiste l'evento? Bene, sì, è un settembre caldissimo perché è il mese in cui si sta svolgendo l'evento più caldo della nostra stagione, che è appunto l'Art Motel Fest, una 2 giorni che i giardini del Baraccano e il Baraccano Casa delle Associazioni, in collaborazione con AIX Bologna, hanno accolto, quindi ci hanno aperto le porte di questa location magnifica che si trova nel cuore del quartiere Santo Stefano di Bologna, per una 2 giorni interamente dedicata alla pittura contemporanea. Il nostro obiettivo è quello appunto di parlare di pittura, di farlo con personalità di spicco del panorama artistico contemporaneo. L'abbiamo già fatto l'11, ospitando Lorenzo Balbi, che è il direttore del Mambo, il Museo d'Arte Moderna di Bologna, Caterina Molteni, che è l'assistente curatrice del Mambo, e 2 artisti di spicco che sono Riccardo Baruzzi e Vincenzo Simone. Quindi abbiamo tenuto questo talk con loro, in cui abbiamo parlato di pittura e pittura en plein air, cercando di, diciamo, accendere i riflettori su una questione spinosa, che è appunto quella della pittura all'interno dell'arte contemporanea. E però non si ferma qui, diciamo, la nostra corsa sulla pittura, perché il 18 daremo appunto vita ad un nuovo evento, giusto Dario? Sì, in realtà questa cosa qui del 18 è stata un po' anticipata da quello che abbiamo fatto sia al DLF che ai Giardini Margherita, dove abbiamo fatto delle sessioni di disegno. Al DLF sono tenute delle sessioni di disegno dal vero, mentre stavolta, incentrando tutto sulla pittura, il 18 ci sarà una sessione di pittura dal vero, quindi degli artisti, tutti gli appassionati di pittura possono venire lì ai giardini del Baraccano, magari prendersi una birra, sorseggiare un drink, come il nostro fare, e poi liberamente dedicarsi a dipingere dal vivo quello che vedono lì nel giardino, che è una location che si presta benissimo per questa sessione, dove c'è natura, ci sono scorci di paesaggi, c'è lì la chiesa che è a 2 passi, e quindi sarà sicuramente un bellissimo pomeriggio che partirà entro le 16 più o meno. Sì, la cosa che ci puoi dire è che si tratta di un pomeriggio aperto a tutti, cioè non solo ad artisti, anche appassionati, associazioni di quartiere che organizzano eventi culturali, che organizzano appunto eventi dedicati all'arte. Quindi vogliamo in realtà coinvolgere un Anche po' i ben contenti pittori della i domenica. pittori della domenica, insomma, gente che comunque potrebbe, diciamo, passare un pomeriggio all'insegno della pittura libera e della creatività. E soprattutto dello stare assieme. Esatto, sì, che è quello che ci preme più di tutti. Sì. Certo, era quello che magari c'era anche un po' mancato, no? Esatto. Nei mesi passati, ecco. E vogliamo dare anche un po' di info pratiche, diciamo, come si può partecipare, bisogna iscriversi, bisogna prenotare. Certo. Sì, allora, per partecipare all'evento del 18 settembre naturalmente occorre registrarsi, perché comunque gli accessi sono contingentati, quindi occorre registrarsi su Eventbrite e naturalmente occorre esibire Il il Green Green Pass. Pass, quindi per essere tutti, diciamo, insieme ma in sicurezza. Le informazioni sull'evento sono sulla nostra pagina Facebook, Art Motel, sul nostro account Instagram, quindi trovate tutto lì, anche diciamo, il collegamento diretto ai link per registrarsi. Esatto, sì. Molto semplice in realtà. E invece, ragazzi, qualche curiosità sui prossimi eventi, se già avete qualcosa in programma, stagione 2021-2022, ci volete anticipare qualcosa? Sì, noi siamo, in realtà siamo già partiti perché il 6 o il 5, non mi ricordo più, il 5, siamo stati ospiti del Museo Civico Luigi Varoli a Cotignola e lì abbiamo organizzato un evento in contemporanea con la mostra che c'è lì adesso al museo e abbiamo fatto anche lì una sessione di disegno dal vivo, ma non soltanto aperta a tutti, ma proprio aperta a chiunque, sono passati bambini, ragazzini, artisti. E quindi già da lì abbiamo iniziato la nostra stagione, che poi man mano continuerà con degli eventi che magari non vediamo subito perché siamo un po' scaramantici. Sicuramente continueremo con lo stare insieme e con il disegno, che abbiamo capito comunque che è un'attività che aggrega tantissimo. E poi stiamo lavorando a eventi di presentazioni di libri, però non vogliamo dire nulla, quindi dovete seguirci sui nostri canali social per essere aggiornati sulle prossime bombe che lanceremo. Il nostro obiettivo è sempre quello di riuscire ad affiancare pittori magari già maturi con dei giovani artisti, quindi io cerco sempre di spronare i giovani artisti a seguirci e magari interessarsi a questo percorso. E Art Motel è uno spazio libero e libero aperto a tutti, quindi se avete proposte, se volete insomma contribuire al progetto, noi siamo aperti. Anche in maniera finanziaria. Non manca mai questo appello. E beh, anche quelli servono, ecco, come servono. Assolutamente. Bene ragazzi, io vi ringrazio come sempre, insomma mi sembra di capire che ci dovremmo risentire per i prossimi progetti futuri. Sì, noi ti ringraziamo perché Radio Città Fuggita è sempre aperta alle nostre proposte, e in particolare tu. Ormai siamo diventati amici. Sì, siamo diciamo, infatti dai. Ci manca solo anche a noi di incontrarci di persona. Esatto, sì, infatti sì. Esatto, grazie Rachele. Grazie a voi ragazzi, buona giornata e buon lavoro. Yeah.